di settimane di studio, di seminario, di qui appunto, come sapete, la parte data alle discussioni, al vivere insieme, in sostanza, di una settimana tra studiosi appartenenti appunto a esperienze storiografiche diverse. Il professor Schirra illustrerà poi il senso particolare, penso, di questa settimana, perché rientra in una serie di settimane che lui stesso ha progettato e proposto, che riguardano appunto la coscienza storica che Italia e Germania avevano all'atto della loro unificazione nazionale, sostanzialmente, o almeno nel secolo della loro unificazione, di quella coscienza storica che questi popoli avevano del proprio passato e del proprio reciproco passato e delle reciproche interrelazioni. Quindi abbiamo avuto l'antichità nell'Ottocento, il Medioevo nell'Ottocento, il Rinascimento nell'Ottocento, e ora forse appunto questa settimana ci presenta il tema più delicato, cioè quello relativo alla storia immediatamente precedente, insomma, alla storia del moderno, cronologicamente difficilmente catalogabile, ma insomma del passato prossimo, diciamo, che l'Ottocento vedeva in Italia e in Germania davanti a sé. Ecco, quindi è tutta una serie in cui primo frutto, e ha avuto anche un esito nel volume, altri due sono già in prossima pubblicazione, nel volume Il Medioevo nell'Ottocento in Italia e in Germania, e l'unica cosa che voglio solo aggiungere è appunto che per la prima volta siamo riusciti a raggiungere questa coedizione tra la società editrice Molino, che sempre è stata la nostra società, e la Dunkel Nunblot di Berlino per la diffusione e il marketing nel mercato tedesco. È una delle cose che sono state così di più grande gioia per noi in questi ultimi tempi, e è un'impresa proprio che è nata da questa serie di seminari e che è particolarmente dedicata quindi a questa serie di seminari dedicata alla coscienza storica dell'Ottocento italiano tedesco. Io ho finito e nelle mie funzioni appunto di maggiordomo do la parola invece al padrone di casa, il presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, che è appunto l'istituto madre-padre del nostro Istituto Storico Italo-Germanico, per il saluto. Grazie. Sì, io sono qui a nome del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, del quale sono presidente fino a questa sera. Stasera. Sì, perché ci sono i rinnovi delle cariche questa sera. A porgere il benvenuto a tutti voi che siete intervenuti a questo importante seminario. In modo particolare desidero rivolgere un benvenuto e un saluto cordiale ai nostri ospiti, diciamo partecipanti di lingua tedesca, naturalmente. So che questo seminario è coordinato dal nostro presidente, il professor Vandruska, questo è un'ulteriore garanzia di successo che comunque auguro molto fecondo a questo vostro lavoro. È il 29esimo, mi pare, seminario dell'Istituto Italo-Germanico di Studi Storici. Noi anche come amministrazione sempre siamo stati interessati e ci teniamo molto al lavoro di questo istituto, che è un lavoro che anche sull'esterno forse appare un po' meno, ma che è un lavoro scientifico molto intenso, molto apprezzato e che ha dato e sta dando risultati sempre più preziosi e sempre più noti in sede nazionale e anche in sede internazionale, credo che possiamo dire, sul campo di questa ricerca storica un po' specifica. Quindi sono particolarmente lieto anche di questo lavoro. Esprimo a nome del Consiglio d'amministrazione, ma vorrei dire anche della nostra comunità che esprime questo istituto, l'Istituto Trentino di Cultura, gli auguri più vivi di un buon successo, di un buon risultato, al quale noi non possiamo dare nessun altro contributo se non quello della struttura, se non quello dei servizi, perché noi naturalmente non siamo né storici né scienziati di nessun tipo. Però, ripeto, ci teniamo molto e io auguro, caro professor Vandruska, mettiamo tutto nelle mani sue ora e auguro veramente successo al vostro lavoro e alla vostra partita. Grazie. Ringrazio il signor senatore che in certo senso il fondatore, mi ricordo ancora come se fosse ieri la sua bella il suo bello prologo nel 3 novembre mi pare del 73. Beh, quando questo istituto, la sua Villa Tambosi, è stato fondato. Ricordo ancora il nostro primo presidente, professor Iedin, che in un certo senso era il santo protettore del nostro istituto, che insieme con Paolo Prodi, che è la macchina che, diciamo, che dava potenza per tutto il tempo, che ha diretto questo istituto e dirige adesso, lui troppo modestamente si chiama soltanto il maggiordomo, ma in verità è lui l'ideatore di questa stazione di posta, di Poststation zwischen der deutschen Welt und Italien, und ganz besonders ein anderer, der sich hierzu bescheiden, der mal hierher gesetzt hat, das ist Frank Schiera, dessen Idee ja diese ganze Reihe gewesen ist, der Seminare über das 19. Jahrhundert. È stata la sua idea, questi seminari sull'Ottocento, come Ottocento, come che è stato anche il secolo dello sviluppo delle scienze storiche, in un certo senso è proprio il secolo che ha creato la scienza storica nel senso moderno. Per questo è stato lui a ideare questo seminario di oggi anche, lo sappiamo. Di nuovo tante grazie, e adesso mettiamo subito al lavoro. Grazie a voi, grazie ai relatori e a tutti quelli che lavorano. Auguri. Professor Schiera è pregato di prendere insieme al professor Vandusch la direzione del lavoro, che i due coordinatori organizzeranno appunto secondo il costume e con piena libertà. Magari facendo precedere oggi o stamattina il pomeriggio la solita presentazione. La presentazione appunto il pomeriggio. Facciamo il pomeriggio, ja. Wir haben immer die Gewohnheit schon seit Jahren, und das hat sich sehr gut bewährt, dass sich alle vorstellen und sagen, worüber sie arbeiten, damit es die Kontakte auch zwischen italienisch sprechenden und deutsch sprechenden sehr rasch gibt. Gemeinsamen Themen, die man sich interessiert, wie wir ja überhaupt uns bemühen, eben nicht zwei Seminare nebeneinander zu halten, sondern ein Seminar bis hin zu den, das bewährt sich ja immer bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Manchmal ist es so, dass am Morgen sitzen die Deutschsprechenden und Italienischsprechenden zusammen, aber schon am Nachmittag und am Abend ergibt sich dann das Mixing, die Engländer nennen, und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe unseres Instituts hier, die lebendige wissenschaftliche Zusammenarbeit und auch die menschlichen Kontakte zu pflegen. Ecco, io vorrei dire che come è consuetudine da noi, ci saranno dei problemi di lingua, ecco. Nel senso che la nostra tradizione è che ciascun relatore, ciascun partecipante parla la propria lingua madre. Tuttavia, da appunto 15 anni questo funziona. E allora speriamo che funzioni anche questa volta. D'altra parte, i due coordinatori, il professor Vandusch e io, cercheremo nei momenti magari di maggior difficoltà o quando qualcuno lo richieda, di tentare di fornire qualche pezzetto di traduzione, eccetera. Insomma, vedrete che alla fine tutto andrà bene da questo punto di vista. La nostra tradizione è che dei due coordinatori ciascuno presiede e coordina la seduta che si svolge nella lingua opposta. Quindi io che sono italiano presiederò le sedute in cui il relatore sarà tedesco e viceversa il professor Wandruschka presiederà le sedute in cui il relatore è di lingua italiana. Questo appunto per consentire quel piccolo lavoro eventuale di traduzione che ci sarà, che sarà necessario. Questo seminario, come diceva il professor Prodi, è un seminario di studi i cui destinatari sono principalmente i borsisti che noi abbiamo selezionato quest'anno, in modo particolare anche facendo delle scelte. Quindi è a loro che noi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. È un seminario con un alto contenuto pedagogico, voglio dire. Non è un convegno in cui studiosi, esperti, specialisti si scambiano opinioni già consolidate, se non definitive. È invece un'occasione in cui si cerca di rendere chiare alcune prospettive, anche forse non del tutto ancora consolidate. Io credo che in questo modo, la nostra esperienza è che in questo modo anche il beneficio per gli esperti e gli specialisti è maggiore di quello che di solito si ha quando ci si limita a buttarsi in faccia le rispettive tesi senza poi sostanzialmente essere disposti a un confronto reale. Ecco. Quindi però per i borsisti una particolare responsabilità, un dovere di partecipare in modo intenso e attivo, intervenendo, portando contributi, soprattutto facendo domande, mettendo in questione quello che i relatori di volta in volta espongono. Oggi pomeriggio, in apertura della seduta pomeridiana, si avrà il tradizionale giro di tavolo. La seduta pomeridiana sarà tenuta nella saletta dietro, spero che ci stiamo, e perché questo consente forse un'atmosfera colloquiale più intensa. Sarà il giro di tavolo in cui tutti i borsisti si presenteranno, diranno da dove vengono, che cosa studiano, che interessi hanno. Per quel che riguarda i relatori, sarebbe utile che ciascun relatore, in apertura della sua relazione, si presentasse brevemente, in modo da rendere noto quelle che sono le sue qualifiche. Nel corso della discussione che ci sarà, che seguirà ogni relazione, tutti coloro che interverranno sono pregati sempre di dire il loro nome, di premettere all'intervento il proprio nome, perché stiamo registrando ed è necessario che ogni intervento sia etichettato sempre, anche dopo, anche se è il 20° intervento, con il nome di chi lo compie, onde facilitare il lavoro di chi dovrà poi risentire tutto e capire che cosa è successo. Infatti i nostri seminari danno normalmente luogo a un volume che raccoglie le relazioni, non già la discussione, ma le relazioni, che tuttavia possono essere anche interventi di qualche partecipante al seminario che non ha svolto la relazione, ma che è in grado e ritiene di portare un proprio contributo. Scusate questa introduzione di carattere tecnico, forse tecnico eccessivo, insomma procedurale, ma insomma è importante avere il quadro, che tutti abbiano il quadro di quello che succederà in questi 5 giorni. Per quel che mi riguarda, il mio nome è Pierangelo Schiera, io sono professore di storia delle dottrine politiche alla facoltà di sociologia dell'Università di Trento e membro di questo, del comitato scientifico di questo istituto, nel quale lavoro quotidianamente e svolgo quotidianamente la mia attività di ricerca. La quale attività di ricerca si è per lungo tempo dedicata ai problemi della formazione dello Stato moderno e si è più in specifico dettagliata in un'attenzione a aspetti della storia tedesca dell'età moderna. Io ho scritto 20 anni fa un libro sul cameralismo e l'assolutismo tedesco e un anno fa un libro su scienza e politica nella Germania dell'Ottocento. In mezzo ho svolto qualche considerazione nel campo della storia della storiografia contemporanea tedesca e ho dato un contributo alla sua conoscenza in Italia mediante la traduzione di opere, soprattutto di Otto Brunner e di Otto Hinze, e adesso sta uscendo quella che sarà l'ultimo mio contributo in questo settore qui, cioè una traduzione di saggi di Gerhard Oestreich. Da ultimo mi sono sempre di più spostato dal campo istituzionale, cioè dello Stato e delle sue istituzioni, al campo della struttura individuale che sta soggettiva, che secondo me sta alla base della modernità occidentale e mi sto dedicando con passione a una ricerca che ancora è molto lontana dall'essere compiuta sul tema melanconia e disciplina nella età moderna. Per quel che riguarda il nostro seminario, il professor Prodi e il professor Wandruska hanno già detto molto. Io sono stato non l'ideatore, ma uno degli ideatori. Ho il dovere e il desiderio di ricordare qui un nostro compianto collega, membro del comitato scientifico dell'istituto, senza la cui appassionata adesione certamente la mia proposta non sarebbe stata accolta. È il professor Raul Manselli, al quale abbiamo già dedicato sostanzialmente anche il seminario della settimana scorsa sull'attesa dei tempi, della fine dei tempi nel Medioevo, e che però va ricordato ancora anche da me, perché la sua straordinaria sapienza storiografica, la sua saggezza era tale da fargli capire quali fossero le idee buone dappertutto. Quindi io penso che questa della serie di seminari sull'Ottocento sia stata un'idea buona, insomma, anche se questa conclusione di oggi è una conclusione difficile. Questa conclusione della settimana, insomma, che inizia oggi è una conclusione difficile, come vedremo fra poco dalle parole che io cercherò di dirvi, insomma, mi pare proprio difficile. L'idea era quella di, insomma, l'Ottocento è l'Ottocento. L'Ottocento non è solo un secolo, come il Settecento, come il Seicento, come il Cinquecento. L'Ottocento in fondo è il nostro secolo. Io credo. Questo almeno è stato il punto di vista da cui io sono partito. L'Ottocento è il nostro secolo perché è il secolo nei confronti del quale noi uomini del Novecento abbiamo esercitato le nostre azioni. in grande parte sappiamo stupidissime durante questo secolo XX, tragiche, e che però non si possono comprendere se non si cerca di capire che cosa l'Ottocento sia stato. Quindi l'Ottocento è stato, secondo me, il crogiolo dell'uomo contemporaneo, no? In tutti i suoi aspetti, anche negativi ma anche positivi. Quindi questo era il punto. L'Italia e la Germania sono l'Italia e la Germania, sono l'oggetto specifico del nostro istituto, degli studi del nostro istituto, ma sono anche qualche cosa di più, no? Evidentemente. Cioè, sono sicuramente due esperienze storiche che nel corso dell'Ottocento soprattutto hanno avuto grandissime analogie, punti di contatto, possibilità quindi per noi di confrontazione, di comparazione. E quindi il problema era quello di capire come questo Ottocento così importante, così fondativo, si era venuto formando a sua volta. Cioè come gli uomini dell'Ottocento in Italia e in Germania avevano pensato di costruire questa loro età rivoluzionaria, ideologica, no? L'età delle ideologie, come ha detto Brunner, in senso forte. Ecco, i materiali per costruire questa coscienza dell'uomo contemporaneo, da dove sono stati presi? Non a caso l'Ottocento è anche il secolo della storia, perché è stato il secolo dello scavo per andare a cercare materiali che poi sono stati utilizzati per costruire altri edifici, altri muri moderni, credo. Così almeno l'abbiamo vista noi questa cosa qui. Come si distruggevano gli antichi altari per costruire mura di difesa, no? Oppure come si abbattevano le antiche abbazie per costruire edifici civili. Allora scavare per ritrovare questi antichi materiali. E scavando la storia, la storiografia dell'Ottocento, questa Erfahrungswissenschaft, questa scienza della realtà, ha costituito forse questi momenti storici distinti, l'antichità, il Medioevo, no? Miti, realtà, epoche storiche, Weltanschauungen, il Rinascimento. E poi però il problema nostro burocratico di concludere questa serie dopo il Rinascimento e quindi l'impatto con l'età moderna. Questo. Ma da lì immediatamente la scoperta che questa età moderna è qualcosa di più che semplicemente tre secoli o due secoli e mezzo. Ci sono 50 anni. È qualcosa di più ricco, di più pieno di contenuti.